Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io su questo lavoro quotidianamente, non faccio mai previsioni perché non sono, diciamo, napoletana, ma sono un po' scaramantica, quindi preferisco non farle. Questa, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, era la ministra della difesa Pinotti, che non è napoletana, dice ma sono scaramantica, a proposito dei due Marò, perché sapete che la questione è sempre lì sospesa, anche dopo le elezioni indiane, ci vuole un po' di tempo, i tempi sono lunghi, insomma, comunque si può immaginare di poter essere ottimisti, ma cerchiamo di essere scaramantici con la ministra Pinotti. Allora, oggi come sempre vi riassumo la giornata, tra pochissimo. A proposito di sumo, vedevo una notizia che arriva dalla Gran Bretagna di poco fa: allarme per bebè sumo. Sapete, avete presente i lottatori giapponesi, quelli grandi e grossi, grassi e grossi si direbbe. I nuovi nati pesano oltre 5 kg in Gran Bretagna, si vede che si nutrono un po' troppo ultimamente, ma adesso passiamo alle notizie più serie. E poi vi ricordo che ci sono sempre per voi i due canali di partecipazione diretta qui a Effetto Notte, o la pagina Facebook di Effetto Notte, sulla quale vedo già dei commenti a proposito di Alitalia, a proposito di disoccupazione, della Rai, di molte altre cose, anche della mia mezza maratona di domenica, vedo Raffaele, Giulio, Fabio che fanno dei commenti, che mi fa piacere, insomma, qualche aspetto così un po' più sportivo. E poi invece entriamo nei vari temi con alcuni ospiti. Ci sono un sacco di ospiti, un sacco di temi stasera, iniziamo subito. Con la disoccupazione, secondo i dati Istat, resta ai massimi, il record per quella giovanile. Il ministro Padoan parla di crescita debole e dice che bisogna privatizzare e ridurre il debito. Fisco torna alla rateizzazione dei debiti, estensione del bonus di 80 euro anche alle famiglie numerose. All'Italia, nell'accordo con Etihad, ci sono 2.500 esuberi e l'Unione Europea raccomanda che la compagnia di bandiera resti in mani europee. Rai, il garante boccia lo sciopero previsto per l'11 giugno, confermati tagli per 150 milioni, i sindacati sono divisi. Riforma del Senato, il governo stringe sul modello francese, ma Forza Italia fa sapere che non ci sta, il PD è spaccato. Foggia, esplosione per una fuga di gas, crolla una palazzina, 2 morti e 4 feriti. In Irlanda, trovata una fossa comune di bambini vicino a una casa delle suore che tra gli anni 20 e gli anni 60 gestivano un centro per figli illegittimi. Calcio, ma il calcio a scommesse che pare torni. Secondo gli operatori delle scommesse della Federberte ci sarebbero sospetti su almeno 10 partite, tra cui Catania-Atalanta. E per i mondiali Cesare Prandelli replica a Rossi: portarlo in Brasile era un rischio troppo grande. Quante notizie quindi, ma partiamo dai dati sempre allarmanti purtroppo sulla disoccupazione, con un nuovo record, preoccupa soprattutto quella giovanile. Intanto il ministro dell'economia Padoan definisce molto debole la crescita italiana. È un'Europa al bivio quella che descrive il ministro dell'economia Piercarlo Padoan in un incontro ristretto alla stampa estera. Un bivio sulla crescita, non essendo il continente, dice, ancora del tutto uscito dalla crisi. Il giorno dopo il richiamo europeo a fare di più su conti pubblici e riforme, e nel giorno dei preoccupanti dati sulla disoccupazione, Padoan definisce molto debole la crescita economica italiana, crescita necessaria a sostenere le finanze pubbliche, afferma. Due gli obiettivi che indica il ministro: riduzione del debito e un target di privatizzazione allo 0,7% l'anno. A mettere sotto pressione il governo non è solo l'Europa, ma la realtà di un mercato del lavoro che arretra e perde posizioni, sfociando nel dramma quando si passa ai giovani. I dati dell'Istat indicano una percentuale di disoccupati pari al 13,6% nel primo trimestre dell'anno, in crescita di ben 8 decimali. In numeri assoluti, quasi 3 milioni e mezzo di persone senza lavoro, un massimo storico, come da record la percentuale di giovani disoccupati sul trimestre, ormai al 46%, con una punta del 60% nel mezzogiorno. Stiamo strisciando sul fondo, non raccontiamoci storielle, dice il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, rincara la segretaria CGIL Susanna Camusso, un dato molto grave che segna la crescita della diseguaglianza tra nord e sud, ma soprattutto indica che non è partito un processo di creazione del lavoro. Prova così a rassicurare il ministro del lavoro Giuliano Poletti: l'obiettivo è cambiare segno alla disoccupazione a fine anno. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. Negative notizie arrivano anche dall'industria automobilistica. Dopo 5 mesi di moderata crescita c'è una flessione del 3,83% per le immatricolazioni in Italia, calo più pesante per Fiat Chrysler Automobilize, ha immatricolato a maggio 36.720 vetture, l'11,03% in meno rispetto allo stesso mese del 2013. Parliamo adesso di bonus, si estende anche alle categorie cosiddette deboli il bonus di 80 euro previsto nel decreto IRPEF. A introdurre la modifica è un emendamento presentato dal PD e votato all'unanimità dalla Commissione Bilancio Finanze del Senato. L'emendamento provvedimento prevede anche la rateatizzazione, oggi sarà la stanchezza della mezzanotte, dei pagamenti delle cartelle di Equitalia. Insomma, si possono pagare con rate per chi è decaduto dal beneficio. E passiamo alla vicenda Alitalia. Sarebbero più di 2.000 gli esuberi stimati per la fusione con la compagnia degli Emirati Arabi Etihad. Il ministro del lavoro Poletti ha spiegato che poi si dovrà vedere quando ci sarà questa discussione di merito tra le parti. Poi cercheremo di capire più tardi che piega, insomma, potrebbe prendere questa vicenda infinita. Al piano di esuberi annunciato per la fusione Alitalia Etihad si aggiunge poi quello dei dipendenti di Meridiana, che in una lettera aperta annunciano un anno di scioperi. Uno sciopero al mese per 24 mesi. Obiettivo: protestare contro i 1.200 esuberi previsti per il prossimo anno. Ad annunciarlo sono i dipendenti di Meridiana Fly, che accusano l'azienda di aver migliorato i conti solo grazie ai tagli al costo del lavoro. Diversa l'opinione del presidente di Meridiana Marco Rigotti, secondo cui per far sopravvivere l'azienda bisogna affrontare il tema della competitività. Non è soltanto un problema di esuberi, ma un problema di competitività del costo del lavoro che va affrontato. Non può essere un alibi per non affrontare gli altri problemi che attengono alla competitività dell'azienda e quindi alle altre strutture di costo. A puntare il dito contro Meridiana anche i sindacati. L'accordo che aveva previsto la cassa integrazione speciale firmato nel 2011 doveva essere seguito da un piano industriale per superare la crisi, spiega il segretario della FILCGL Sardegna Franco Monaco, che aggiunge: se noi abbiamo impegnato con l'organizzazione sindacale con CGL l'azienda da un secondo dopo la sottoscrizione di quegli accordi, per capire attraverso quali strategie e piani industriali l'azienda vuole puntarsi al superamento della crisi e quindi all'assorbimento di quegli esuberi che erano certificati dagli accordi presso il Ministero. Antonella Ferrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Altra azienda in primo piano è la RAI. C'è stato il via libera al taglio dei 150 milioni, ma c'è ancora scontro tra Susanna Camusso, leader della CGIL, e il presidente del Consiglio Renzi. Resta ai massimi livelli la tensione tra governo e sindacati. La protesta dell'11 giugno è illegittima, dichiara la commissione di garanzia, perché la data non rispetta l'intervallo di 10 giorni tra due scioperi nello stesso settore. Ma i sindacati vanno comunque avanti e se mobilitazione deve essere, lo sarà in un'altra data, così il segretario della CGIL Camusso. I tagli si possono fare su tanti altri terreni su cui bisogna avere più coraggio, però, che non è quello di prenderselo con l'ultimo anello della catena, che sono i lavoratori. Duro anche Angeletti, Will, che definisce Renzi un pessimo amministratore per l'azienda pubblica. Si smarca invece Bonanni, CISL, la decisione del garante, dice, l'occasione per riflettere sull'opportunità di bloccare la RAI con uno sciopero. Frenano anche i vertici dell'azienda. Per il direttore generale Gubitosi lo sciopero è un errore, mentre a difesa dello sciopero il presidente della commissione vigilanza RAI Roberto Fico, così a 24 mattino. Io difendo la parte dello sciopero e del contenuto che vuole difendere l'infrastruttura. Struttura pubblica Railway. Intanto dal Senato arriva la conferma del taglio da 150 milioni di euro previsto dal decreto IRPEF. Non ci saranno però ulteriori risparmi. L'azienda pubblica sarà infatti esclusa dai tagli previsti per le società partecipate, salve anche le sedi regionali. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E anche questo è uno dei temi che affronteremo dopo. Vedo già dei vostri messaggi. Per esempio, dice un ascoltatore, Franco: ai tanti renziani favorevoli al taglio Rai chiedo se la proposta l'avesse fatta Berlusconi cosa avrebbero detto, e certa stampa che adesso tace, siamo a rischio democrazia, dice Franco. Passiamo invece alla scuola adesso. C'è stato l'ok della Camera, il via libera della Camera al decreto scuola. Il decreto legge è stato definitivamente convertito in legge con 281 sì, 71 no e 29 astenuti. Questo decreto legge regolarizza i 112 dirigenti scolastici della Toscana che a seguito di un ricorso dovranno ripetere il concorso vinto nel 2011. Il decreto prevede anche la proroga dei contratti degli addetti alle pulizie in Campania e Sicilia. E passiamo allo scandalo Carige. La Guardia di Finanza ha trovato altri soldi occultati da Giovanni Berneschi. Mentre l'inchiesta sulla Carige prosegue divaricandosi su vari filoni, la Guardia di Finanza scopre altri quattrini accumulati, secondo la Procura, illecitamente. Dopo gli oltre 22 milioni sequestrati il 22 maggio nell'ambito dell'esecuzione delle misure cautelari, nelle ultime ore gli uomini della tributaria hanno intercettato altri 5 milioni, compresi alcuni titoli, nella disponibilità di Giovanni Berneschi, ex plenipotenziario di Carige, di sua nuora Francesca Misano e dell'ex capo del ramo assicurativo della banca Ferdinando Menconi. Il denaro contante era custodito in alcuni conti correnti aperti offerte in Carige, mentre i titoli sarebbero stati gestiti dal centro fiduciario al quale faceva capo la gestione delle operazioni riservate. È su questo ambito che si stanno concentrando le attenzioni della Procura e da questo filone che l'inchiesta pare destinata a subire un'accelerazione. Nei prossimi giorni alcuni dei 7 arrestati compariranno nuovamente a Palazzo di Giustizia, questa volta per essere sentiti dal procuratore aggiunto Nicola Piacente e dal sostituto Silvio Franz. Berneschi è atteso venerdì. Il suo legale ha fatto sapere che l'ex presidente di Carige ha intenzione di rispondere alle domande dei magistrati, così come aveva fatto la scorsa settimana davanti al GIP, ma al termine dell'interrogatorio era stato trasferito in carcere. Durante i domiciliari, infatti, avrebbe violato gli obblighi cercando di movimentare denaro attraverso il cellulare della moglie, di cui l'inasprimento della misura restrittiva. Berneschi è accusato di truffa, riciclaggio, falso in bilancio e ostacolo all'attività di vigilanza. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. E spostiamoci sulle notizie dall'estero. È stato scoperto in Irlanda, pensate, una fossa comune che potrebbe contenere fino a 800 corpi di bambini. Si trova vicino a una casa dove tra il 1925 e il 1961 un gruppo di suore ospitava madri non sposate coi figli illegittimi. I bambini erano spesso malati e malnutriti, come è emerso da un'ispezione fatta nel centro negli anni 40. Le autorità di Dublino potrebbero aprire un'inchiesta su questa vicenda. E poi in India degli sconosciuti hanno violentato una giudice indiana nello stato dell'Uttar Pradesh, tentando anche di ucciderla ma lasciandola poi ferita in modo molto grave. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Yans. Questo tra l'altro è un nuovo episodio di violenza sulle donne indiane che è accaduto appena pochi giorni dopo lo stupro, la brutale uccisione, vi ricordate, sempre in Uttar Pradesh, di due cuginette impiccate poi a un albero. Con la cronaca torniamo in Italia, parliamo di due morti e di quattro feriti nell'esplosione di una palazzina a Foggia. Avevamo sentito un forte odore di gas ed erano venuti i tecnici ieri tranquillizzandoci. Così un testimone dell'esplosione che ha distrutto parte di una palazzina nel centro storico di Foggia. Questo il suo racconto. Mi hanno detto che era i fumi di scarico della caldaia. Ho detto, ma vedi che non è i fumi di scarico della caldaia, perché comunque... cioè, si sente forte, cioè, io lo sento quando sono i fumi della caldaia. La causa dell'esplosione invece sarebbe stata proprio una fuga di gas. A perdere la vita due giovani coniugi, Giuseppina Fiore, 29 anni, e suo marito Luigi Veneziano, 37, che abitavano da poco in quella palazzina. Si è invece salvato il loro bambino di 4 anni. I soccorritori lo hanno estratto vivo dalle macerie. Più serie le condizioni di un altro ferito, un anziano di 85 anni che ha riportato gravi ustioni. Nell'esplosione sono rimasti feriti anche altri due coniugi che abitavano al primo piano dell'edificio. Il calcio adesso, per ora il calcio scommesse, perché è un'altra vicenda inquietante di presunte scommesse. C'è tra queste Catania-Atalanta, Inaci, Tadella-Empoli, Palermo-Crotone, Padova-Carpi, Crotone-Trapani, più 5 match di Lega Pro e l'amichevole Levski-Sofia-Lazio sono in match a sospetto di Combin, secondo il rapporto 2013-2014 presentato questa mattina al Parlamento Europeo dalla Federazione di Operatori del Settore Scommesse, che lotta contro la manipolazione sportiva e con la quale poi parleremo più tardi per capire questa vicenda, quali ombre effettive ci sono. E poi il calcio, in realtà quello tutto verso i mondiali. L'allenatore della nazionale azzurra Prandelli è ritornato sull'esclusione di Giuseppe Rossi e sentiamo cosa ha detto Prandelli. Era un rischio talmente grande che non me la sono sentita, sarebbe stato per me facile sceglierlo, saremmo tutti contenti, apparentemente contenti, ma il rischio è troppo grande. E quindi io gli ho comunicato che non aveva completato il percorso di guarigione. È chiaro, ti meravigli poi quando si sorprendono di questo, quando le cose sono chiare. Insomma, questo è il parere di Prandelli, ecco perché non si è rimasto fuori nonostante le polemiche, e qui direi di chiudere la sintesi della giornata. Adesso man mano affronteremo alcuni dei temi, tra quelli che ho citato anche qualcuno in realtà di cui non ho parlato. Vedo però Salvatore da Pordenone che torna su una delle notizie date all'inizio, così tra quelle che vedevo proprio come ultime agenzie, dei bambini sumo in Gran Bretagna che stanno nascendo sempre più bambini che pesano sui 5 kg. Dice: io sono nato 50 anni fa, pesavo 4,8 kg, bebè sumo, che stupidità. Insomma, prima ne nasceva uno ogni tanto, così per lo più cos'è il peso medio tra i 3 kg e 3 kg e mezzo. Mi pare che se ne nascano molti di 5 kg si possa effettivamente parlare di un piccolo, quantomeno piccolo allarme. Comunque le notizie sono tante, vedo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche al 349 238 6666 su Alitalia, sulla Rai, sulla politica. Intanto aggiorniamo chi viaggia, tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, le notizie adesso ve le riassumo come sempre dopo le pause, poi cominciamo, vi dicevo, ad affrontare alcuni temi e sempre a disposizione per voi due canali, gli sms al 349-238-6666 oppure, sapete, 24 ore su 24 la pagina Facebook di Effetto Notte. Vi ricordo però le notizie. IRPEF, si va verso il bonus alle famiglie numerose, disoccupazione resta al top, il ministro Padoan dice la crescita è debole, bisogna privatizzare e ridurre il debito. In Alitalia 2500 esuberi, l'Unione Europea dice la maggioranza comunque resti, con questo accordo con Etihad, resti comunque europea. I lavoratori intanto dicono attendiamo il piano. Il garante boccia per gli scioperi, boccia lo sciopero Rai, sindacati spaccati, confermati i tagli, si parla di un'ipotesi salvataggio delle sedi regionali. Tensioni sulle riforme, Forza Italia contro il modello francese della riforma del Senato, di cui parleremo, questa è un'altra ultima invenzione trovata, vedremo di cosa si tratta. Il Movimento 5 Stelle intanto consulta la rete sull'alleanza con Farage. Obama sfida Mosca, 1 miliardo per la sicurezza nell'est Europa. Intanto la cancelliera Merkel a Hollande, il presidente francese, suggerisce l'ipotesi Lagarde per la presidenza della Commissione Europea. A Foggia un'esplosione per una fuga di gas fa crollare una palazzina, 2 morti e 4 feriti, c'era stato un allarme evidentemente sottovalutato, torna il calcio scommesse, sospetti su 10 partite italiane. E adesso direi di parlare con il vice direttore del Sole 24 Ore, Chicco Padula, che saluto, ciao Chicco. Buonasera, ciao. Chicco, qui abbiamo un sacco di materiale, insomma, io partirei dal dato, ogni volta si dice record, evidentemente si sfondano sempre nuovi record, non so, sulla disoccupazione, no? Ci capita almeno una volta alla settimana di dire disoccupazione record. Vogliamo sentire cosa ha detto il ministro del lavoro Poletti a questo proposito? Sentiamo. È un dato, come posso dire, che è figlio della crisi che abbiamo alle spalle e abbiamo bisogno di una ripresa molto più forte, perché diversamente in questa fase anche una piccola ripresa non produce occupazione, perché le aziende hanno gli impianti poco utilizzati e quindi prima di assumere persone o aumentare il numero degli occupati satureranno gli impianti, e quindi sappiamo che questo è un problema che abbiamo davanti e che di qui a fine anno ci dovremo gestire. Poi naturalmente per i giovani vale il dato generale: o c'è una ripresa forte dell'economia e si creano nuovi posti di lavoro, oppure noi ci troveremo stabilmente in questa situazione. Quando noi abbiamo detto che questo paese rischia pian piano di deprimersi, rischia pian piano di rimanere piantato, fermo, impantanato, e parliamo di questo, quindi c'è bisogno di cambiamenti radicali e bisogna farli. Allora, c'è Max che scrive: buonasera, per i disoccupati ci sarebbe da discutere, io sono a contatto con molti giovani, se si danno una mossa il lavoro c'è. Bah, insomma, questa è un'opinione di molti, ma non credo che in questo momento sia così fondata. Tra l'altro, Chicco Padula, questi cambiamenti radicali di cui parla Poletti, quali potrebbero essere tradotti, insomma, in lingua intelligibile? In lingua intelligibile, ma bisogna capire, secondo me, che per creare lavoro servono più infrastrutture, serve meno fisco sulle imprese, servono più investimenti sia pubblici che privati, servono meno sprechi di risorse della pubblica amministrazione. È, secondo me, sbagliato pensare che, diciamo, le politiche sul lavoro si facciano solamente, diciamo, riformando le regole, che ovviamente sono fondamentali, sono importantissime, però non bastano da sole a creare occupazione. Quindi quello che le regole devono creare il contesto, quindi va benissimo quello che il governo ha fatto qualche settimana fa con il decreto legge, che ricorderete ha, diciamo, semplificato l'utilizzo dei contratti a termine e probabilmente, auspicabilmente, ha rilanciato il sistema di assunzione dell'apprendistato, che deve proprio favorire i giovani. Va benissimo il Jobs Act, che è in Parlamento e che avrà bisogno, insomma, di tempi brevi ma non brevissimi di attuazione, però quello che si deve fare insomma è favorire l'accesso al credito alle imprese, quello di tagliare il cuneo fiscale, quello di incentivare alcune tipologie di investimento per le imprese, perché solamente facendo innovazione tecnologica e diciamo guardando, pensando a una nuova idea di sviluppo, si potrà far partire un lavoro che deve essere un lavoro di qualità destinato a durare nel tempo, eccetera. Quindi il problema è che insomma bisogna, è un ritornello, ma bisogna dirlo, bisogna fare molto di più per la crescita e si sta ancora purtroppo facendo poco. Solleviamoci un attimo, vediamo con Crozza Ballarò che cosa dice in questo momento. Scusa Chicco. Prego. Cioè, se tu pigli il programma di Farage e quello di Grillo, l'unica cosa che hanno in comune è che si leggono da sinistra verso destra. Niente, non possiamo sollevarci, anzi, ripiombiamo ancora più giù, caro Chicco Padula. Perché? Allora, abbiamo appena parlato di disoccupazione, di cosa andrebbe fatto per risollevare l'occupazione, il lavoro, eccetera, eccetera, che non bisogna soltanto cambiare le regole dei contratti, non soltanto quello può, no, creare un volano per l'occupazione. Ripeto, quello è importantissimo, ma non, da solo non è sufficiente, perché comunque se non abbiamo le risorse, se le imprese non hanno accesso al credito, se comunque siamo stritolati da burocrazia, tasse, eccetera, comunque insomma il lavoro non si creerà in questo modo, ecco. Però ti dicevo, andiamo dall'Italia, no? Un altro grosso tema, dove rischierebbero di uscire 2500 persone senza lavoro, no? Perché l'attesa lettera per il via libera di Abu Dhabi, della capitale degli Emirati Arabi, sede di Etihad, di questa compagnia che si sta da tempo interessando all'Italia, sembra che l'accordo sia molto vicino. Ha mandato Etihad una lettera di una trentina di pagine in cui specifica le condizioni, i criteri per entrare nel capitale di una new company in cui verranno conferite le attività operative di Alitalia con una quota compresa tra il 45 e il 49%. Comunque deve essere sotto il 50% per non perdere i diritti di compagnia comunitaria, deve essere europea come insiste l'Unione Europea. Però pare che si parli di esuberi per almeno un numero di 2.400-2.500 persone, anche qua. Sì, diciamo che la lettera arrivata ieri insomma chiarisce tre aspetti, anzi due più uno che ancora non si chiarisce bene, però diventa centrale anche in funzione degli esuberi. Il primo problema è quello degli esuberi, cioè Etihad insomma chiede una riduzione del personale di circa 2.500 unità. Lo ha confermato oggi il ministro del lavoro Poletti, lì evidentemente ora si aprirà una fase di trattativa su un doppio tavolo, immagino, cioè da un lato con Etihad stessa e dall'altro lato con i sindacati. Devo dire che nei giorni scorsi erano circolati anche numeri diciamo superiori alle indicazioni emerse oggi, quindi che si andava comunque verso un ridimensionamento del personale era in qualche modo atteso, ovviamente molto doloroso per chi lavora in Alitalia, ma insomma sappiamo che queste cose poi prendono certe direzioni e certi accordi sono possibili solo a determinate condizioni. L'altro problema era quello dei debiti, dei vecchi debiti di Alitalia, della società Alitalia, che sono circa 560 milioni. Anche qui si sarebbe trovato diciamo un accordo tra diciamo le banche che si accollerebbero un terzo di questi debiti mentre la parte restante diciamo verrebbe portata nel capitale di Alitalia stessa, e quindi diciamo anche questo problema dovrebbe risolversi. Però oggi si è aperto anche un altro problema, che è quello legato diciamo al futuro di Malpensa, che per noi, per l'Italia, no, è abbastanza rilevante, perché sembrerebbe di capire che nei piani di Etihad Malpensa non abbia un posto, non sia destinata ad avere un posto di primo piano, esattamente. Sembra che loro immaginino che Malpensa possa essere diciamo convertita solo in hub per il traffico cargo e non per il traffico passeggeri. Allora qui per riagganciarci agli esuberi, penso che proprio a Radio 24 oggi il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha detto: beh, attenzione, perché i 2.400-2.500 esuberi sono una cosa, ma se poi diciamo si interviene su l'assetto aeroportuale italiano e Malpensa è destinata a perdere ancora peso, allora gli esuberi rischiano di raddoppiare, perché tutto l'indotto di Malpensa ovviamente ne verrebbe colpito. Anche qui però bisognerà un pochino attendere i prossimi giorni, perché dobbiamo ricordare che nel piano nazionale degli aeroporti che si è fatto dal ministro Lupi è previsto solo un aeroporto strategico nel nord-ovest in Italia, che è Milano Malpensa. Quindi adesso bisogna vedere se il governo, quando andrà a trattare anche con Etihad, insomma, farà presente questa cosa, che Etihad vuole rinunciare all'aeroporto che il governo ha individuato come diciamo l'hub principale per il nord per Italia. Quindi insomma, la situazione mi sembra ancora abbastanza, come dire, fluida, però il rischio che le ripercussioni, per riagganciarci al discorso lavoro, sul piano occupazionale possano essere significative, insomma, dobbiamo essere realisti, e c'è questo rischio, evidentemente c'è. E ci scrive Maria, a parte altri messaggi su questo argomento, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dice: sì, all'Italia non cambia granché, come altre volte i debiti mi pare di capire che se li addossa la comunità, e così le agevolazioni agli esuberi. Non so bene cosa intenda per agevolazione agli esuberi, perché questi esuberi non lo so bene che fine faranno. Comunque, per il momento rimaniamo a questo punto. Chicco Padula, tu ci devi dare buone notizie, qualche volta ti aspettiamo ancora. No. Del Sole 24 Ore. Sì, qualche volta chiamami per una buona notizia. Va bene, mi ci impegno, Chicco. Buon lavoro. Ok, ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi ancora con voi. Adesso stavo guardando una smentita che arriva da Etihad, ne abbiamo parlato poco fa, di Alitalia, smentisce che vi sia alcuna volontà di ridurre o chiudere Malpensa. Siccome oggi a Radio 24 anche il presidente della Regione Lombardia, Maroni, aveva parlato e ha detto che assolutamente non era possibile marginalizzare Malpensa, Etihad dice non c'è nessuna intenzione in realtà, quindi smentisce questa notizia. Adesso vi riassumo le altre notizie e poi andiamo su un altro tema. Disoccupazione, secondo i dati Istat, resta ai massimi, record per quella giovanile. Il ministro Padoan parla di crescita debole, dice che bisogna privatizzare e ridurre il debito. Fisco, torna alla rateizzazione dei debiti, l'estensione poi del bonus di 80 euro anche alle famiglie numerose. All'Italia, nell'accordo con Etihad, ci sono 2.500 esuberi e l'Unione Europea raccomanda che la compagnia di bandiera resti in mano europee. Rai, il garante boccia lo sciopero previsto per l'11 giugno, confermati tagli per 150 milioni e i sindacati sono spaccati su questo tema. Riforma del Senato, il governo stringe sul modello francese, ma Forza Italia fa sapere che non ci sta, il PD è diviso. A Foggia l'esplosione per una fuga di gas provoca il crollo di una palazzina con due morti e quattro feriti. Il calcio scommesse, ancora tornano ombre su possibili partite truccate. Secondo gli operatori delle scommesse della Federbert ci sarebbero sospetti su almeno 10 partite. Poi per i mondiali Cesare Prandelli, che replica a Rossi, portarlo in Brasile sarebbe stato un rischio troppo grande. Parliamo quindi di Rai, vedo diversi vostri messaggi sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte anche su questo tema. Sapete che c'è uno scontro sempre più forte tra governo Renzi e sindacati, in particolare diciamo non con la CISL. Bonanni in serata ha detto: beh, insomma, se il garante degli scioperi dice che questo sciopero non sa da fare, che è illegittimo, bisogna rifletterci, evidentemente non è una cosa che possa andare avanti così a testa bassa, muso duro. Però insomma, Renzi giorni fa aveva detto sulla RAI delle cose che la leader Camusso non ha gradito, tra poco lo sentiremo, ma soprattutto quello che potrebbe provocare, che al momento resta confermato, lo sciopero del prossimo 11 giugno dei dipendenti RAI, è questa richiesta di un contributo, come ha detto Renzi, cioè anche tutti hanno fatto sacrifici, anche la RAI deve dare il suo contributo, ci saranno tagli per 150 milioni. Sentiamo brevemente Renzi. Questa francamente incredibile riflessione e polemica che nasce dal sindacato interno, che devo dirle? Lascia il tempo che trovo, c'è soltanto un dispiacere forte. Se avessero annunciato lo sciopero la settimana delle elezioni, anziché il 48 prendevo il 42.8. Vogliono fare sciopero? Lo facciano. E poi andiamo a confrontare i numeri della RAI e quanto costano le sedi regionali. Venga, noi non abbiamo fretta, non abbiamo furia. Vogliono venire a fare questa discussione su questi numeri? La facciamo. E poi ha detto Renzi, questo sciopero umilia, è umiliante. Sentiamo allora il leader Camusso a cosa ha risposto a questa osservazione. Noi insistiamo, c'è un dibattito un po' strano intorno a noi, ma noi insistiamo perché un'avvertenza si fa così. Si va dai lavoratori, si ottiene un mandato, si hanno degli obiettivi e poi si costruisce un'interlocuzione. Allora, credo che da questo punto di vista sia stato grave sostenere che uno sciopero è umiliante, perché non capisco cosa umili. E questa è la leader Camusso che ha confermato questo sciopero per l'11 giugno. Prima di interpellare il presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione delle leggi sullo sciopero nei servizi pubblici, vi faccio sentire anche con cosa questa mattina a effetto giorno ha detto Roberto Fico, presidente della Commissione di vigilanza RAI. Io difendo la parte dello sciopero del contenuto che vuole difendere l'infrastruttura pubblica Rai Way, perché noi dobbiamo dividere in questo caso in due punti fondamentali. Il primo punto è che levandomi in questo presente 150 milioni di euro alla Rai vai a svendere l'infrastruttura pubblica perché devi fare cassa immediatamente e sappiamo che quando tu devi fare cassa immediatamente chi tiene a vantaggio è sempre il compratore, non il venditore. Questa discussione l'abbiamo già avuta in commissione proprio con il direttore generale. Personalmente continuo a non essere d'accordo, perché se tu a metà anno perdi come mancato incasso 150 milioni di euro che erano stati già programmati, tu vai a svendere un tuo bene e questo bene è un asset strategico italiano, sono le nostre antenne di trasmissione. La RAI va assolutamente riformata, deve essere trasformata, deve cambiare, devono cambiare il numero secondo me delle testate giornalistiche, bisogna fare una riforma della governance della RAI, bisogna ridurre gli appalti esterni che oggi ammontano a circa 1 miliardo e 2 miliardi e 4, sì. E quindi poi riorganizzare le sedi regionali, il personale interno. Insomma, questo è Roberto Fico a 24 mattino in realtà. Allora, io saluto Roberto Alesse, buonasera. Buonasera a voi. Presidente della Commissione di garanzia per l'appunto dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che ha detto oggi questo sciopero è illegittimo. In che senso, Alesse? Ma guardi, la decisione di oggi è stata una decisione tecnica, come ben sanno i sindacati ai quali abbiamo scritto. Lo sciopero proclamato in ambito RAI per il giorno 11 giugno da parte di varie sigle sindacali è illegittimo perché è stata violata la regola in materia di rarefazione oggettiva, così si dice, che stabilisce il principio in base al quale in caso di scioperi riguardanti una pluralità di settori deve essere rispettato un intervallo minimo di 10 giorni. E siccome era stato precedentemente proclamato uno sciopero da parte di un altro sindacato per il giorno 19 giugno, quello indetto per la RAI non si può fare. Quindi da parte nostra non c'è nessuna valutazione di merito, ma un invito a rispettare la legge e semmai a riformulare la proclamazione dello sciopero per un'altra data. Quindi il problema, Roberto Alesse, è soltanto questo, perché diciamo, i maligni, i maliziosi hanno dato un'accezione politica a questa scelta. No, guardi, l'autorità è, noi facciamo molte cose, perché la legge dalla quale siamo nati ci attribuisce diversi poteri, ma in primo luogo l'autorità è il giudice della legittimità formale della legge e quindi fa il suo lavoro e la legge va rispettata. Quindi se la RAI facesse lo sciopero parecchio dopo l'altro sciopero indetto dall'altro sindacato, non avreste nulla da eccepire, tutto qua insomma. Va riformulato, perché vede, in caso contrario, vale a dire in caso di inosservanza di quello che abbiamo noi stabilito, noi saremmo costretti ai sensi di legge ad aprire un procedimento di valutazione garantendo ovviamente il contraddittorio che si concluderà o con un procedimento di archiviazione oppure con l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di chi ha violato la legge. Grazie Roberto Alesse, la ringrazio, grazie della disponibilità. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Grazie. Saluto subito Stefano Folli, il nostro editorialista del Sole 24 Ore. Stefano, quindi ecco, dicevo, i maliziosi, i maligni hanno detto qui c'è una volontà in realtà del garante degli scioperi di non scontentare Renzi, visto che Renzi, insomma, adesso è un uomo solo al potere, il trionfatore di queste elezioni, è la speranza, la guida, eccetera, eccetera. Non scontentiamolo. Invece ha spiegato tecnicamente che la questione è questa. Tu che cosa ne pensi di questo sciopero annunciato per l'11 giugno dalla RAI, di questo scontro tra governo e sindacato, in particolare la CGIL? Perché mi sembra che forse mai nessun presidente del Consiglio italiano si sia espresso così nei confronti della RAI. Ma io ho l'impressione che difendere lo sciopero della RAI come viene fatto dal sindacato, e dando così l'impressione di voler proteggere quella che si prospetta un po' come veramente una manifestazione molto corporativa, perché gli sprechi della RAI sono evidenti, la necessità di una riforma viene riconosciuta un po' da tutti, persino da quelli che sono intenzionati a scioperare. Beh, tutto questo determina un terreno che è veramente molto favorevole al Presidente del Consiglio, il quale vuole mandare un messaggio molto chiaro all'opinione pubblica. Il messaggio che ha mandato prima delle elezioni, ma continua a mandarlo adesso, no? Un messaggio di uno che non si fa intimidire e che vuole procedere con notevole sicurezza a riformare quegli aspetti del Paese che sono meno difendibili agli occhi dell'opinione pubblica. Oggi la RAI è palesemente bisognosa di un grande bagno di rinnovamento, quindi questa protesta, per come è venuta configurandosi questo sciopero, appare davvero una difesa corporativa di un assetto che non tiene più, che non regge più, che non è più al passo con i tempi, il che non significa naturalmente che poi non ci siano nella RAI tantissimi ottimi lavoratori, tantissime ottime persone che lavorano magari pagando anche un prezzo in termini di qualificazione, di stipendio che viene ricevuto molto basso, c'è di tutto, ma è all'interno di un organismo che ha bisogno palesemente di essere rinnovato profondamente, lo riconoscono gli stessi dirigenti, no? Basta leggere anche le interviste di Gubitosi al Corriere della Sera, c'è un processo in corso sul quale però a facile gioco Renzi ad accelerare, no? A chiedere un'accelerazione e quindi ad opporsi a coloro che invece si arroccano in una difesa, quella che appare essere a tutti gli effetti una difesa di privilegi antistorici. Insomma, mi ricordo un pochino lo sciopero dei controllori di volo dell'era Reagan, quando Reagan li lasciò fare, li lasciò sfogare, poi li colpì duramente e da quel momento la sua popolarità del Presidente degli Stati Uniti crebbe enormemente. Ecco, ho l'impressione che la RAI per Renzi sia diventata un po' l'occasione per mettere le carte in tavola e manifestare fino in fondo il suo profilo di rinnovatore e riformatore molto spregiudicato, molto, come dicevi tu, molto fuori dagli schemi tipici del rapporto tra il governo e il sindacato. Infatti vedo anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, per esempio, tra i tanti, Domenico che scrive: do atto al governo di iniziare a toccare temi definiti sempre intoccabili. Però andiamo su un'altra cosa che sembrava intoccabile, vediamo poi che strada prenderà, quella del Senato, no? Dopo l'impegno delle elezioni europee adesso deve riprendere il cammino delle riforme, quelle che aveva annunciato Renzi, e si riparte dal Senato. Oggi è venuto fuori questo modello francese, la proposta di un modello francese, Forza Italia ha subito detto no, non ne vogliamo sapere nulla, di mentre il nuovo centrodestra, che è dentro la maggioranza di governo, ha detto aspettiamo, ha detto Sacconi, di vedere bene in cosa consista, noi comunque teniamo i nostri emendamenti. Che ne pensi? Una nuova invenzione? Non ci si capisce più niente su questo Senato. No, ma sono quelle cose, capisci, che l'opinione pubblica veramente si perde, no? Il modello francese. Modello Giuditta, mi viene da dire, no? Sì, piccolo diario. Sì, sì. nessuno sa esattamente cosa sia il modello francese per il Senato, no? Detto in parole semplici, lo dico per gli ascoltatori, ma è una modalità di eleggere i senatori in modo indiretto, cioè è una platea di amministratori locali molto ampia che elegge, no? Che sceglie poi i senatori, quelli che andranno. Siccome tutta la discussione è sull'elezione indiretta, sì, o diretta, ecco, questa è una modalità dell'elezione indiretta. Ora, non è un argomento fatto per entusiasmare chi si ascolta o chi legge i giornali. Il problema di fondo è a cosa dovrà servire questo Senato. Serve a qualcosa o no? Perché se non serve a niente, alcuni dicono beh, aboliamolo del tutto. Vedo anche diversi ascoltatori. Però sì, lo dicono gli ascoltatori. Però il problema è che siccome si stiamo parlando di un assetto costituzionale molto complesso, il nostro assetto costituzionale, piaccia o non piaccia, allora abolire il Senato implica una serie di problemi a cascata molto rilevanti. Trasformarlo, togliendogli il voto di fiducia al governo, già sarebbe qualche cosa di più semplice, lo dico in maniera molto, molto banale, sarebbe più semplice, però questo comporta la definizione dei compiti di questo Senato, di che cosa farà, quali saranno le sue funzioni. Tutte queste funzioni hanno un rilievo costituzionale, quindi la questione è complicata, ridurla soltanto a una questione di modalità dell'elezione forse è un pochino riduttivo e non aiuta a comprendere il problema. È fuorviante, comunque ci torneremo perché verranno fuori altri modelli, intanto certo. Grazie Stefano Fondi, buon lavoro, ciao Stefano. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Anzi, pochissimi secondi, vi li ricordo ora, abbiamo altri temi, IRPEF verso bonus anche alle famiglie numerose, disoccupazione resta al top, il ministro Padoan dice la crescita è debole, bisogna privatizzare e ridurre il debito. In Alitalia potrebbero essere 2.500 gli esuberi, intanto l'Unione Europea chiede che la maggioranza di Alitalia resti in mano europea. Il garante boccia lo sciopero Rai, sindacati spaccati, confermati tagli per 150 milioni, ne abbiamo parlato. E poi la tensione sulle riforme, Forza Italia contro il modello francese della riforma del Senato, intanto il Movimento 5 Stelle consulta la rete su Farage. Adesso invece parliamo di Europa, il nostro appuntamento con l'Europa, perché si apre domani a Bologna la sesta edizione di Innovat and Match, un'iniziativa organizzata da Aster in collaborazione con la rete europea Enterprise, rivolta alle piccole e medie imprese e alla ricerca. Come racconta Gabriella Gualandi di Aster, è membro di Enterprise Europe Network, l'ha intervistata Cristina Carpinelli. Europa 24 notte. Domani 4 giugno e nella giornata del 5 giugno si svolgerà a Bologna Innovate and Match, un'occasione di incontro tra ricercatori e imprese che si incontreranno all'interno di una fiera internazionale, di un salone internazionale della ricerca che si chiama Research to Business, per trovare occasioni per creare delle partnership di ricerca o di trasferimento tecnologico tra imprese siano italiane ma anche straniere e imprese ricercatori che vengono dall'estero. Saranno 264 i partecipanti, alcuni dei quali provenienti da 9 paesi stranieri. Ci sarà il Canada, la Cina, l'Estonia, la Germania, Gran Bretagna, la Romania, la Spagna e infine la Turchia, fino alla lontana per noi USA. Ci sono tanti ricercatori e tante imprese anche del nostro territorio italiano che saranno qui a Bologna proprio per trovare dei partner, quindi delle collaborazioni per far nascere dei contratti, per far nascere delle collaborazioni, per sviluppare dei nuovi prodotti, per sviluppare delle collaborazioni anche commerciali e anche per presentare progetti di ricerca a livello europeo nell'ambito di quello che è il programma Horizon 2020 che finanzia proprio la ricerca a livello europeo e non solo. Ecco, voi avete già come dire, una stima di quanto questo genere di iniziative, quindi questi incontri determinino poi una crescita nelle piccole e medie imprese? La Commissione europea realizza un'analisi di quelli che sono i dati, i risultati sia numerici che di beneficio da parte delle imprese e dei ricercatori, perché è importante il numero, ma è anche importante capire quali sono poi gli impatti sul lavoro che si svolge e quindi sui contratti che nascono. Partiamo dai numeri. Nel periodo 2008-2012 sono stati più di 9.000 gli accordi di collaborazione tra imprese e ricercatori, di cui 900 siglate tra operatori italiani e partner stranieri. I benefici in termini di impatto che hanno ricevuto i clienti che hanno partecipato ai brokerage event sono queste iniziative tipo Innovator Match, ma anche ad altri servizi della rete, scopriamo che il 40% dei soggetti che hanno risposto all'indagine della Commissione hanno rivisto la propria strategia sia commerciale e di sviluppo di prodotti e di collaborazioni tecnologiche con l'estero. Il 60% ha detto anche che ha sviluppato nuovi prodotti, quindi in concreto ha sviluppato nuovi prodotti e nuovi servizi. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Questo per quanto riguarda l'Europa. Adesso invece parliamo, ve lo dicevo nei titoli, di questa ombra che torna, che riguarda il calcio scommesse. Ci sarebbero dubbi su altre 10 partite, insomma sembra veramente una malattia cronica del nostro paese. E questa denuncia viene da Federbet, che è la federazione di operatori del settore scommesse che lotta contro la manipolazione sportiva. In un rapporto emerge 2013-2014 presentato al Parlamento europeo. Allora saluto subito Francesco Baranca, segretario generale di Federbet. Di cosa si tratta esattamente, Baranca? Buonasera. Buonasera. Niente, si tratta della seconda parte di un rapporto che abbiamo già presentato in quel di dicembre e riguarda appunto una serie di partite che nutrono in sé il germe del sospetto della manipolazione. E tra queste partite purtroppo ci sono partite anche che riguardano il campionato italiano, la Lega Pro, la Serie B e la Serie A italiana. E voi come fate a rilevarlo questo? Non avete la certezza, è un'ipotesi questa, è un sospetto? Allora, io dico che questi sono dei sospetti. Innanzitutto in passato noi abbiamo collaborato anche con le procure italiane nel momento dello scandalo del calcio scommesse con le procure di Cremona e di Bari, e il mercato delle scommesse è un mercato simile a quello della borsa, in cui per ogni possibilità c'è un prezzo. Quando questi prezzi impazziscono, mi consenta il termine, siamo di fronte a qualcosa di strano e siamo di fronte quindi presumibilmente a un tentativo di manipolazione. E allora saluto anche Marco Bellinazzo. Ciao Marco. Ciao, buonasera. Del Sole 24 Ore, esperto di calcio e business, ha anche un blog proprio che si intitola Calcio e Business. Che ne pensi di questa cosa, Marco? Beh, innanzitutto tremo ogni volta che finisce il campionato, perché ormai ogni estate ci ritroviamo con sospetti, indagini, perquisizioni legate a calcio scommesse. Insomma, siamo alla vigilia del mondiale e spesso poi questi scandali scoppiano per la vigilia dei mondiali, quindi insomma sarei molto cauto. Perché c'è qualche orologeria, come si dice, una denuncia. Beh, orologeria. Più che altro, sai, finisce il campionato, insomma, e quindi c'è tempo per occuparsi anche di questo. Le procure magari non vogliono incidere sul calcio giocato e aspettano la fine dei campionati per fare gli arresti, insomma, purtroppo. Ah, quindi materiale c'è, vogliamo dire. Sai, qui abbiamo, come è stato spiegato, insomma, dei flussi anomali sulle scommesse che evidentemente vengono registrati, insomma, dalla rete di agenzie. Questo non vuol dire che le partite siano state, come dire, manipolate. Questo, per arrivare a quello devi dimostrare poi che il risultato su cui si è scommesso, molto di più di quello che normalmente si fa, sia stato poi determinato, diciamo, attraverso un accordo tra giocatori, attraverso la corruzione dei giocatori, insomma, come dimostra l'indagine di Cremona, che ha fatto degli arresti ma che è tuttora aperta e non ha portato, diciamo, a conclusioni processuali, questo passaggio non è così semplice. Però ben vengano ovviamente le denunce, le segnalazioni di pericoli, perché devono essere tali da mettere sempre in guardia, insomma, il sistema nel suo insieme, certo, contro questi pericoli. Visto che lo conosciamo, Francesco Baranca, abbiamo ancora 34 secondi per dire come finirà questa cosa al Parlamento europeo, quindi? Ma ci auguriamo che questa battaglia che abbiamo iniziato porti a dei risultati. Io credo che il sistema Italia non abbia sviluppato gli anticorpi necessari per reagire al problema, a differenza di altre nazioni come la Spagna, che si è affidata a un sistema di prevenzione rigido e ha visto in un anno completamente risolversi il problema. Quindi complimenti alla Lega Calcio Spagnola, ci auguriamo che anche gli altri vogliano seguire questo esempio e ci auguriamo che la politica ci dia una mano a livello legislativo europeo per cercare di fare fronte comune contro quello che è un problema veramente grande. Grazie Francesco Baranca, grazie Marco Bellinazzo. Buonasera. Ciao Marco, ciao, arrivederci Francesco Baranca. Noi ci lasciamo come sempre per qualche istante per poi ritornare brevemente.